La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla seconda edizione della scuola di alto dottorato dedicata a Italia meridionale e mediterraneo, che si è tenuta dal 17 al 21 giugno tra l'Università di Salerno e il piccolo centro di Atrani, una delle perle della costiera amalfitana. Ospite ai nostri microfoni Michela Mansi, assessore alle politiche sociali e cultura al comune di Atrani. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato a come il sesso ha cambiato il mondo. Per millenni, uomini e donne hanno rischiato il ridicolo e la rovina per soddisfare i propri desideri carnali, ma spesso il piacere ha un prezzo. La parola adesso va a Dino Pesole. Può apparire sorprendente, ma in Italia, e specialmente nel Mezzogiorno, l'insegnamento della storia del Mediterraneo praticamente non esiste, o quasi. È una vera contraddizione, soprattutto se paragoniamo la nostra situazione con quella di altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, dove assistiamo a un fiorire di iniziative, incontri, convegni che sono dedicati proprio al Mediterraneo. Tra il 17 e il 21 giugno, tra l'Università di Salerno e il piccolo centro di Atrani, una delle perle della costiera amalfitana, si è tenuta la seconda edizione della scuola di alto dottorato dedicata all'Italia meridionale e al Mediterraneo tra i secoli VII e XIII. Un'iniziativa che coinvolge varie istituzioni culturali italiane e straniere di prestigio, oltre all'Università di Salerno anche l'École Française de Rome, l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, così da proporre in maniera più incisiva la ricerca sul Mediterraneo in relazione a uno dei periodi più particolari della sua storia, proprio quel Medioevo che fece del mare il terreno di incontro e di scontro tra diverse civiltà, culture e religioni. Il comune di Atrani ha condiviso sin dall'inizio l'idea di questa iniziativa, con l'obiettivo di recuperare l'identità culturale della cittadina dopo la violenta frana che nel settembre del 2010 ha deturpato il profilo dell'abitato, con morti e distruzioni. Il tema presentato nel corso di questa edizione è stato quello dei poteri, con un'attenzione specifica sia al Mezzogiorno che più in generale al Mare Nostrum, il Mediterraneo. In particolare ci si è soffermati sulla storia del Nord Africa, della Spagna e della Grecia bizantina. 18 giovani studiosi provenienti da Italia, Francia e Stati Uniti hanno seguito le lezioni di storici di fama internazionale, tra cui Giuseppe Galasso, Jean-Marie Martin e Annalise Neff. Il passaggio successivo è creare una scuola di studi per la storia del Mediterraneo a carattere permanente, che riesca a convogliare diverse energie a vari livelli, istituzionali e culturali, italiani ed europei. Scuola che dovrebbe realizzarsi proprio ad Atrani. Diamo il benvenuto a Michela Mansi, assessore alle politiche sociali e cultura del comune di Atrani. Buonasera. Buonasera. Ci illustri un po' meglio questa iniziativa che si è appena svolta e soprattutto i passaggi successivi che vi attendete? Dunque, questa iniziativa è frutto di una collaborazione instaurata da circa un anno con il professore Femiello e subito dopo con Stéphane Joanny, che è il direttore dell'École Française di Roma, e che hanno, diciamo, dato la disponibilità ad una nostra volontà di ospitare, di accogliere delle scuole di alta formazione ad Atrani per dare inizio ad un percorso lungo, ma un percorso che immagino sarà luminoso, essendo io ottimista, che ha come obiettivo l'impianto di un centro di formazione stabile ad Atrani, che dovrebbe caratterizzare appunto il borgo per una diversa attività che prescinda e che possa innestarsi parallelamente al turismo che interessa soprattutto questi periodi. Ecco, secondo lei per quale motivo in Italia, nonostante l'Italia sia, come sappiamo, pienamente integrata nel Mediterraneo, non vanta scuole particolarmente incisive dal punto di vista della storia del Mediterraneo? Ma diciamo che c'è una sottovalutazione del privilegio, il privilegio di rappresentare una fetta importantissima di questa storia, un ruolo che nei secoli è stato per lo più di protagonismo. E dispiace a tutti e anche a me, che sono uno storico dell'arte, che ho affrontato in prima persona lo studio del Mediterraneo e della storia, che ci ha visti ricoprire un ruolo tanto importante, non vedere dei centri di grosso approfondimento. È stato questo uno degli spunti del discorso che abbiamo affrontato insieme a queste istituzioni importantissime culturali, che hanno dato vita a questa collaborazione con il Comune di Atrani, che per quanto piccolo vuole dire la sua, medita un ruolo di rivalsa, un percorso di rivalsa rispetto ad una storia tanto importante come quella del suo passato, di città gemella di Amalfi, antica Repubblica Marinara, e che oggi purtroppo fa fatica a rintracciare i segni di tanta gloria e di tanta potenza. E non a caso voi siete partiti proprio dal Medioevo, che è un periodo storico cruciale da questo punto di vista. Sì, è il periodo più fortunato per noi, è il periodo in cui si ambienta questo enigma di Amalfi, che contrariamente alla grandezza ancora attuale di città come Venezia, Pisa, Genova, ha avuto questa parabola importantissima e inspiegabile dal punto di vista storico, che per caratteri logistici e anche per delle circostanze che infortunatissime che si sono create all'epoca hanno, diciamo, smesso di essere, hanno lasciato il posto ad una vocazione prettamente turistica, che ci vede sicuramente essere visibili e importanti nel quadro nazionale, ma che spesso oscurano e offuscano quella che è stata la gloria storica importante. Gli incontri che si sono svolti nei giorni scorsi hanno visto la partecipazione di numerosi giovani studiosi che provengono dall'Italia, dalla Francia, ma anche dagli Stati Uniti. Ecco, che reazione, quali interessi avete riscontrato da parte di questi giovani? Ma è stato curioso registrare la loro grande sorpresa. Sono abituati per questa tipologia di esperienza ad essere collocati o a essere ospitati in luoghi prettamente legati ai campus formativi, o come nella prima parte di questa iniziativa a Fisciano, quindi nel luogo delle universitas. In questo caso hanno fatto fatica a capire quale tipo di prospettiva e quale strategia amministrativa avessimo noi messo in campo per giungere così lontano in qualche maniera, per provare ad incoraggiare, per investire, per scegliere di investire in cultura, che è una scommessa veramente particolare di questi tempi, a giudicare dalle risorse di cui disponiamo. Già, questo è un aspetto fondamentale, ci pone subito un interrogativo: come la cultura, ad esempio, può contribuire nel vostro caso a recuperare anche l'integrità di un territorio che è stato duramente colpito da una calamità naturale nel settembre del 2010. Ecco, su questo immagino che voi come comune ci puntiate molto. Sì, Atrani purtroppo ha questa necessità di riappropriarsi della propria identità, ma anche di un suo ruolo di promozione, di un ruolo di visibilità che le appartiene, che la colloca nel giusto quadro, che parla della sua bellezza, che parla delle sue caratteristiche fondamentali. Ha purtroppo da fare i conti tutti i giorni con la sensibilità del territorio, con la fragilità. È una convivenza stabile che i cittadini hanno imparato a digerire. Provano con noi, con il gruppo dell'amministrazione, a condividere delle prospettive, a immaginare degli scenari in cui Atrani possa riattestarsi e possa risalire la china per una caratterizzazione specifica per rivolgersi ad un target che gli altri non, che diciamo trascurano. Possiamo quindi individuare, proviamo tutti i giorni a mettere in campo dei tentativi che abbiano a che vedere con quello che c'è di bello, quello che c'è di sano, con il grosso patrimonio di cui possiamo disporre, le possibilità che già ci appartengono. La cultura è sicuramente un campo che può appartenerci e che potrebbe significare la nostra futura ricchezza. E dando un'occhiata alle sessioni di lavoro che si sono svolte, ad esempio martedì 18 giugno le forme del potere, il 19 gli uomini e il potere, giovedì 20 giugno l'ideologia del potere. Quindi è il potere una delle chiavi che unificano e che hanno unificato queste riflessioni che voi avete svolto in queste giornate di studio. Come mai questa scelta? Ma il potere è stato, in quel momento magico della Repubblica, è stata la chiave di volta per l'unione comprensoriale, che è quello che poi a livello politico ci auguriamo di ristabilire oggi tra i 13 comuni della costiera. Proviamo continuamente a stabilire dei contatti e a interpretare le esigenze di stabilire un'identità comprensoriale, perché la costiera amalfitana ha tante piccole differenze, ha le identità ben definite per le piccole cittadine, ma ha anche un patrimonio comune da condividere e che insomma più interlocutori contemporaneamente possono comunicare all'esterno in un modo molto molto più forte. Grazie allora a Michela Manzi, assessora alle politiche sociali e culturali del Comune di Atrani. Buona serata. Grazie, buonasera. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato a come il sesso ha cambiato il mondo. La ricerca sfrenata del sesso può trasformare in un incubo la vita, sia privata che professionale. È esattamente quanto è successo al cofondatore di una delle più grandi strutture del mondo per la ricerca aerospaziale. Quest'uomo avrà anche inventato il carburante per i razzi, ma la sua vita sessuale era più strana della fantascienza. Vi presentiamo Jack Parsons. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 7 luglio, alle 16:05, su History Channel. Mentre gli occhi del mondo sono tutti rivolti verso i campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, una cittadina della California è rallegrata da un evento che avrà un impatto enorme sulla storia. Nasce Jack Parsons. Richard Metzger, scrittore, DangerousMinds.net. John Whiteside Parsons, da tutti conosciuto come Jack Parsons, nacque in una ricca famiglia di Pasadena. Era di natura ribelle, una specie di fuorilegge. E gli piaceva far saltare in aria tutto. Da questa passione sviluppò un interesse per la missilistica. All'epoca la missilistica ancora non esisteva. Il viaggio nello spazio era un'esclusiva dei romanzi di fantascienza e degli svitati. George Morgan, commediografo. Jack Parsons aveva un sogno, volare sulla Luna con un razzo spaziale. E pensò, visto che nessuno costruisce questi razzi, lo farò io. A Pasadena, la sua città natale, Parsons fa amicizia con persone che condividono la sua passione per gli esplosivi. Il gruppo di ricercatori si fa chiamare Suicide Squad, la squadra suicida. Nel 1942, mentre la macchina da guerra statunitense si prepara a unirsi alle forze alleate nella Seconda Guerra Mondiale, Jack Parsons inizia un'impresa che si rivelerà decisiva per il conflitto globale. Insieme ad altri membri della squadra suicida fonda la Aerojet Engineering. Nel primo progetto abbinano dei razzi a degli aerei. George Morgan, commediografo. Durante la Prima Guerra Mondiale era emerso un problema. Come fare a decollare da una pista corta e fangosa? Jack Parsons dimostrò che era possibile farlo mettendo un paio di razzi sotto agli aerei militari per dare una spinta extra. Ora si poteva decollare da una pista corta e fangosa. Parsons e la Aerojet progettano dei razzi adatti allo scopo, ma devono risolvere il problema del carburante. Dato che il composto chimico utilizzato per alimentare i razzi col tempo diventa instabile. George Morgan. Il carburante per i razzi non era conservabile. Si deteriorava, poteva addirittura esplodere. Ma Parsons ebbe un'idea: usare una sostanza duttile che non induriva e non diventava friabile. Riuscirono così a produrre un carburante che poteva essere conservato. L'esercito poteva immagazzinarlo per un anno o due, prenderlo, riempire il serbatoio dell'aereo e decollare su piste molto corte. Il carburante viene utilizzato anche per i missili militari più piccoli. Fu un grande passo avanti per la Seconda Guerra Mondiale, uno dei più importanti nella storia della missilistica. Risolto con successo questo problema, Parsons e l'Aerojet diventano subito famosi. Ma la cosa più incredibile di Parsons, ancora più della sua opera nel campo della missilistica, è la sua vita sessuale, che in questo periodo prende una chiara piega fantascientifica. Tutto comincia con un libro da cui Parsons viene ispirato, scritto dall'occultista inglese Aleister Crowley. Crowley è il leader di un culto mistico che mescola magia nera e sesso. Da ribelle che sogna l'impossibile, Parsons è affascinato dalle idee di Crowley. George Morgan, commediografo. Aleister Crowley creò una religione nota come Thelema. La filosofia di Crowley si riassumeva in una sola frase: fa ciò che vuoi. E il sesso ne era un elemento molto importante. I suoi seguaci partecipano a rituali magici di natura sessuale, convinti che i desideri espressi durante l'orgasmo saranno esauditi. George Morgan. Jack Parsons all'improvviso si rese conto che quella era la filosofia, la religione, la visione della vita che aveva sempre cercato. La sua vita si evolse verso un nuovo capitolo, in cui era ingegnere missilistico di giorno e occultista di magia nera di notte. Difficile dire cosa desideri Jack Parsons durante i rituali sessuali, ma una cosa è certa: gli affari vanno alla grande. La squadra suicida crea il laboratorio per lo sviluppo dei jet a propulsione a Pasadena e inizia a produrre missili guidati per l'esercito e a progettare le prime astronavi della NASA. I progressi tecnologici dell'Aerojet sono cruciali per l'esercito nella Seconda Guerra Mondiale e Parsons fa soldi a palate. Ma presto la sua vita prenderà una piega diversa. George Morgan, commediografo. Jack Parsons acquistò una villa con 12 camere da letto. Poi fece pubblicare sul giornale un annuncio che diceva: affittasi camere, graditi bohemien, artisti, anarchici e atei. Si preferiscono in particolare astrologi, occultisti e donne di bassa levatura morale. Contattare Jack Parsons. La mattina dopo trovò una lunga fila davanti casa. Erano tutti anarchici, atei e donne di bassa levatura morale. Chi immaginava ce ne fossero così tanti a Pasadena? Riempì subito tutte le camere della villa. Faceva feste in continuazione, con scambi di coppie, mariti che scambiavano mogli. Era una continua, grande orgia. Jack conobbe una donna di nome Helen, si innamorò di lei e si sposarono. La moglie abbracciò con entusiasmo la dottrina di Crowley, la Thelema. Betty, la sorella minore di Helen, si trasferì alla villa e cominciò subito una relazione con Jack. Helen era pronta a chiudere un occhio sulle relazioni extraconiugali di Jack, anche sotto al loro tetto, ma non con la sorella. Fu allora che la situazione alla villa di Orange Grove cominciò a degenerare. Dopo la fine del suo matrimonio, per Parsons, Thelema diventa un'ossessione e si convince addirittura di essere il messia della magia sessuale, la cui missione è fondare un nuovo ordine mondiale. Ma per riuscirci, crede di dover diventare padre. George Morgan. Lo chiamavano il figlio della luna. Un messia che avrebbe portato letteralmente all'Armageddon, distruggendo il mondo così come lo conosciamo e guidandolo verso la rinascita con una nuova umanità e una nuova civiltà. Richard Metzger, scrittore, dangerousminds.net. Nella sua mente questo doveva accadere prima del ritorno della consapevolezza cristiana e del risollevarsi dell'umanità. Nel 1945 Parsons conosce un'attrice, Marjorie Cameron. George Morgan, commediografo. Jack la convinse col tempo a sperimentare la magia sessuale. E più sperimentava, più Marjorie veniva risucchiata da questa cultura. Presto giunse alla conclusione che Jack Parsons aveva ragione e che il loro destino era generare questo figlio della luna e arrivare alla fine del mondo. Diventò una partecipante molto attiva dei rituali di magia sessuale. Dopo vari tentativi, Parsons non riesce a generare un figlio della luna con Marjorie Cameron. Mentre i sogni legati alla magia sessuale falliscono, anche la sua carriera prende una brutta piega. La tecnologia dell'aerojet è diventata così importante per l'esercito statunitense che il Pentagono decide di prendere il controllo della compagnia. Richard Metzger, scrittore. C'è una considerazione importante da fare. Mentre la missilistica diventava un'industria, Jack Parsons appariva sempre più sospetto, soprattutto a causa della sua vita da occultista. L'FBI aprì un file su Jack Parsons. Parsons, con la sua magia sessuale e i suoi sogni apocalittici, non è esattamente il tipo di uomo che si vorrebbe a capo di progetti bellici segreti. Jack si ritrovò sempre più escluso dalla sua stessa compagnia. Il suo stile di vita era un problema. Era considerato una minaccia per la sicurezza. Jack alla fine fu costretto a lasciare l'aerojet. Fu messo da parte e ostracizzato dalla stessa industria che aveva contribuito a fondare. George Morgan, commediografo. Jack, ormai fuori dalla compagnia che aveva creato, era sul lastrico. L'Armageddon, predetto nei rituali di magia sessuale, non era arrivato. Non gliene andava bene una. Privo di risorse, Jack decide di fare i bagagli e cercare di rifarsi una vita in Messico. Jack stava sistemando delle cose nel suo garage, che era pieno zeppo di sostanze chimiche, molte delle quali volatili. Accidentalmente, una fialetta di fulminato di mercurio, molto sensibile agli shock, cadde sul pavimento di cemento ed esplose. L'esplosione gli portò via mezza faccia. Morì qualche ora dopo. Richard Metzger, scrittore, dangerousminds.net. È un finale tragicomico. L'uomo che aveva inventato il carburante solido per i razzi, che si vedeva come colui che avrebbe portato l'apocalisse, fa cadere una fialetta con un composto chimico in garage e si fa saltare la testa. Anche se muore nel 1952 all'età di 37 anni, l'eredità di Parsons continua a vivere nella moderna esplorazione dello spazio. Sono i primi traguardi di Parsons con il carburante solido per razzi a trasformare in realtà il suo sogno di viaggiare nello spazio. Se non fosse stato per la sua controversa vita sessuale, chissà dove avrebbe potuto portarci. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Sesso, la chiave del potere, passioni pericolose, scritto da Alex Piper, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione EITN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 7 luglio alle 16:05 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.